tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Non sono spot, pensiamo alla crescita, dice Padoan sulla manovra e aggiunge niente condoni. L'aumento del deficit però suscita le perplessità dell'Europa. Oggi l'incontro tra Renzi e Obama, al centro dei colloqui ci saranno anche l'Europa, appunto, la situazione economica e la crisi dei migranti. Rallenta ma prosegue l'offensiva sulla città di Mosul, roccaforte dell'ISIS. Si temono attentati suicidi ed esplosivi lasciati dagli jihadisti. 5 Stelle, polemica sulle spese di Di Maio, ma Grillo lo difende. Lui replica, in 3 anni ho restituito 204.000 euro. Migranti, 7 donne su 10 tra quelle che arrivano in Italia vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale, in gran parte nigeriane, molte minorenni. Anche a Rimini la truffa dei finti orfani, minorenni albanesi vengono abbandonati dai genitori perché ricevono vitto, alloggio e istruzione. 40 i casi scoperti. Col bambino non può stare qua. La Lega contro una consigliera comunale di Milano che ha portato il bebè in aula. Cercano la secessione dalla modernità, dice lei. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura, dunque, parliamo della manovra. Il deficit al 2,3% rispetto all'1,8% promesso e al 2% indicato nella nota di aggiornamento del DEF, la conferma del PIL all'1%, così come la richiesta di spese straordinarie per terremoto e gestione migranti. Questi punti cruciali della trattativa con Bruxelles. La bozza di bilancio è ora sul tavolo della Commissione che vaglierà carte, cifre, tabelle. Un esame che, ha promesso il commissario europeo per gli affari monetari Pier Moscovici, non sarà punitivo, ma di certo esigente, anche perché, ha aggiunto, per il rapporto deficit-PIL c'è uno scarto pari allo 0,5% e non era la cifra che avevo in mente. Ma il ministro dell'economia Padoan si dice ottimista, convinto del rispetto delle regole europee, così a Uno Mattina. I numeri andranno valutati, a nostro avviso siamo in regola. Il rapporto con la Commissione europea è molto positivo, è un rapporto continuo con cui ci consultiamo a vicenda. Il 1° novembre è il termine entro il quale la manovra potrà essere rispedita al mittente, scenario altamente improbabile. Entro il 30 dello stesso mese il giudizio definitivo con la richiesta di eventuali correzioni, mentre giovedì o al più tardi lunedì comincerà l'iter in Parlamento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. 0,16 punti di PIL per l'emergenza profughi in Italia e 0,02 per gli investimenti nei paesi di transito e origine, 0,3 punti per la ricostruzione e la prevenzione post terremoto. Nelle 70 pagine inviate a Bruxelles, Palazzo Chigi specifica le spese straordinarie che fanno salire il deficit 2017 al 2,3% del PIL rispetto all'1,8% promesso e al 2% contenuto nel DEF. Il prossimo anno l'economia crescerà dell'1%, confermato il pareggio di bilancio al 2019. Le coperture, 12 miliardi, includono tagli di spese e il miglioramento della compliance fiscale. Nel dettaglio, 2,5 miliardi arrivano dal recupero dell'evasione, fatturazione elettronica e correttivi sull'IVA, poco meno di 2 miliardi dalla tanto discussa voluntary disclosure sul contante, che verrà prorogata per tutto il 2017 e prevede la possibilità di un prelievo forfettario. Stesso valore per l'asta delle frequenze, mentre più di 2,8 miliardi sono attesi dalla revisione della spesa dei ministeri. Tra le misure, il pacchetto pensioni vale 1,7 miliardi, 600 milioni il bonus famiglie. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E l'altro fronte del quale si continua a discutere è l'abolizione di Equitalia, la cancellazione di Equitalia. Nessun condono, si paga il dovuto. Il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, blocca sul nascere le polemiche scatenate dalle scelte del governo di fare una nuova voluntary disclosure allargata anche al denaro contante occultato in Italia e rottamare le cartelle esattoriali di Equitalia. Il timore che i provvedimenti pensati con la manovra di bilancio possano risolversi in un condono non arrivano solo dal mondo politico. Anche le agenzie di riscossione nutrono dubbi e temono il crollo delle entrate a partire dal prossimo anno, perché la politica dei condoni può vanificare l'efficacia di enorme lavoro fatto negli ultimi anni. C'è il rischio, insomma, che sconti e tassazioni agevolate si traducano in un favore per i più ricchi. Ma Padoan getta acqua sul fuoco. La voluntary disclosure fa emergere ricchezza, dice, su cui poi bisogna pagare le imposte. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo ai dati sul lavoro. Calano ancora, secondo l'osservatorio sul precariato INPS, le assunzioni a tempo indeterminato e anche le cessazioni dei contratti, ma sono ancora in aumento voucher e contratti a tempo determinato. Sentiamo. Non si arresta il calo delle assunzioni. L'allarme è nei dati INPS di agosto, contenuti nell'osservatorio sul precariato, riferiti ai soli datori di lavoro privati. Tra gennaio e agosto di quest'anno, infatti, le assunzioni sono risultate 3.782.000, con una riduzione di 351.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2015, un calo dell'8,5%, crollo soprattutto dei contratti a tempo indeterminato, meno 395.000, giù del 32,9%. La spiegazione, secondo l'INPS, è però il confronto con il forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015, anno in cui potevano beneficiare dell'abbattimento integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 3 anni. Anche le cessazioni nei primi 8 mesi del 2016 sono diminuite del 7,3% ed è boom dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, su di oltre il 30%. In crescita invece di oltre 2 punti percentuali i contratti a tempo determinato e soprattutto l'apprendistato, con un balzo del 18%, segno più anche per i contratti che beneficiano dell'esonero contributivo biennale introdotto dalla legge di stabilità 2016, hanno creato 330.000 rapporti agevolati. Continua il boom dei voucher, ne sono stati venduti quasi 97 milioni in 8 mesi. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E ci sono i dati diffusi questa mattina dal Ministero dell'Istruzione che riguardano i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Nell'anno scolastico 2015-2016 sono stati 652.000 circa, contro i 273.000 dell'anno precedente, con una crescita del 139%. In particolare, riferisce il Ministero, agli studenti delle classi terze, quelli coinvolti nei primi per primi dall'obbligo previsto dalla legge Buona Scuola, sono 455.000. Il 90,6% del totale degli iscritti. Il Presidente del Consiglio Renzi oggi negli Stati Uniti, nel pomeriggio la prima conferenza stampa con Obama. Le rose sono già sui tavoli, gli agnolotti in preparazione alla Casa Bianca per l'ultima cena di Stato di Barack Obama del suo secondo e ultimo mandato. Una cena di Stato dedicata all'Italia, alla quale parteciperanno il Premier Matteo Renzi, la First Lady e 400 invitati che rappresenteranno il bel paese, dall'atleta paralimpica Beatrice Vio fino al regista Roberto Benigni. Ma prima della cena ci sarà spazio per un bilaterale fra il Premier Matteo Renzi e il Presidente americano. In un'intervista oggi a Repubblica, il Presidente americano promuove le riforme italiane e per il Washington Post questa cena è un clamoroso voto di fiducia a Renzi da parte dell'amministrazione. Agnolotti a parte, quindi, il menù prevede che si parli del futuro dell'Europa, della crisi dei rifugiati, della crescita economica, di Siria, Libia e del ruolo della Russia. Così, giovedì, il Premier Matteo Renzi dall'America volerà direttamente a Bruxelles, dove lo attende il giudizio sulla manovra. Ma in valigia avrà il bottino di fiducia a stelle e strisce incassato a Washington. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è molto probabile che si parli nel colloquio tra Obama e Renzi anche di Iraq, che è il luogo dove andiamo adesso, a Mosul, per l'offensiva nella roccaforte dell'ISIS. L'offensiva verso Mosul ora procede a rilento. I curdi, che ieri avevano annunciato la conquista di diversi villaggi, si sono bloccati ad una quindicina di chilometri dalla città. A sud, le forze dell'esercito irachene avanzano lentamente, villaggio dopo villaggio, per bonificare il percorso dagli esplosivi lasciati dai jihadisti in ritirata, ma anche per il pericolo di attacchi suicidi. La riconquista della roccaforte dell'ISIS si preannuncia dunque lunga e piena di insidie. Si combatte su 3 fronti, sul campo, da sud, con le forze irachene supportate dalle milizie sciite, ad est con i miliziani curdi e nei cieli con i bombardamenti e i droni della coalizione internazionale. Gli Stati Uniti, che hanno chiarito non guidano l'offensiva, stanno dando supporto. L'ONU intanto lancia l'allarme. 1,5 milioni di civili rischiano di trovarsi sotto assedio, diventare scudi umani. Si teme soprattutto per i bambini. E mentre si sta lavorando per creare campi di emergenza che possano ospitare i profughi, i trafficanti di esseri umani chiedono $10,000 per far fuggire i civili. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sentiamo una testimonianza, per quanto una testimonianza dall'Italia, è intervenuto a 24 Mattino lo scrittore Yunis Taufik, che è iracheno di Mosul, la cui famiglia è in città in queste ore. Sentiamo l'intervistato da Alessandro Milan. I suoi parenti sono, immagino, ancora a Mosul, si sono spostati, ci dica un po' se ha contatti con la città. No, sono ancora lì, purtroppo non possono spostarsi anche perché l'ISIS ha imposto a chi tenta di fuggire la pena di morte, però comunque anche tra di loro, tra l'ISIS, c'è chi fa il contrabbandiere per 10.000 euro, fanno uscire chiunque dalla città, ma i miei non possiedono tutta questa cifra, essendo numerosi. Io ho mia madre, un fratello e quattro sorelle e poi tutti i nipotini. Mosul è una città tanto grande che possiamo dire quasi il doppio di Milano, per cui noi non costruiamo grattacieli, sono tutti villette sparse su tutto il territorio. E per entrare poi in questa periferia fatta di ville, per arrivare poi al cuore della città, che possiamo immaginare un labirinto di viuzze molto strette, sarà lì che sarà molto dura. Non possono entrare né macchine né carri armati, per cui devono fare battaglie casa per casa. E per questo gli americani oggi hanno dichiarato che ci vuole tanto tempo per poter liberare la città, non si può farla in due giorni. Il lato della politica italiana, soprattutto col fronte del referendum, siamo qua, Elisabetta Fiorito, in attesa della sentenza del TAR, no? Sì, appunto, occhi puntati sul TAR del Lazio, che già oggi, Simone, dovrebbe pronunciarsi sul ricorso proposto da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana per contestare la formulazione del quesito referendario, ma sono molti i ricorsi presentati che si differenziano per alcune sfumature, tra cui quello del presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida, che contesta di aver raccolto in un solo quesito argomenti di tipo diverso. Ieri invece l'udienza sul ricorso del Movimento 5 Stelle di Sinistra Italiana, 3 ore di riunione e la decisione dovrebbe arrivare oggi o al massimo domani. Che cosa contestano 5 Stelle e Sinistra Italiana? Il quesito così formulato è una specie di spot pubblicitario per il governo, perché incompleto e fuorviante. L'Avvocatura dello Stato invece ieri è intervenuta a favore del quesito, perché il testo richiama la legge di riforma costituzionale e consente ad ogni cittadino di potersi informare andando a leggere la norma varata in Parlamento. Ma c'è anche un altro ricorso, quello del Codacons, che ha chiesto di unire tutti i ricorsi il 26 ottobre. Insomma, però attendiamo invece la sentenza del TAR su quello di Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Per rimanere sulla politica, nei 5 Stelle sono diventati una specie di caso le spese di Di Maio. L'appello di Beppe Grillo a restare uniti sembra caduto nel vuoto. Nuove faide interne lacerano infatti il Movimento 5 Stelle. A finire al centro delle polemiche in queste ore è Luigi Di Maio. Roberto Fico nega di essere a capo di una fronda contro il vicepresidente della Camera. Sarebbero però diversi i parlamentari pentastellati ai quali non piace l'attivismo del candidato premier in pectore, finito ora sotto accusa per gli oltre 100.000 euro spesi in 3 anni per seguire eventi sul territorio. È tutto trasparente, in 3 anni e mezzo ho restituito ai cittadini italiani oltre 200.000 euro, assicura stamattina il diretto interessato, al quale però arriva una tirata d'orecchio da parte di Nicola Morra. Tutti abbiamo spese per sostenere eventi sul territorio, ma siamo chiamati a farlo con la dovuta sobrietà, sottolinea il senatore pentastellato, il quale invita a non dimenticare che è proprio sotto l'auspicio della sobrietà che è nato il Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 7 donne su 10 fra le migranti che sbarcano sulle coste italiane sono vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Per lo più si tratta di giovani nigeriane, molte minorenni, lo dice la responsabile delle attività antitratta dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Simona Moscarelli. L'ha intervistata Valentina Furlanetto. Il fenomeno che più ci allarma ultimamente è quello che sta accadendo sulle coste italiane, dove svariate migliaia di ragazze, soprattutto di origine nigeriana, vengono portate dai trafficanti per essere messe sulla strada, sia in Italia che in Europa. È un aumento vertiginoso, parliamo più del 1000% rispetto al 2013. Ci spaventa soprattutto il fatto che queste ragazze siano sempre più piccole, dai 13 anni. Siamo al processo Mafia Capitale. Ci parla di questo oggi nella sua analisi del martedì Daniele Biacchessi. È un processo fantasma quello su Mafia Capitale in corso nell'aula romana di Rebibbia. Eppure di spunti di cronaca il dibattimento ne offre quasi ogni giorno. Solo ieri è andata in scena l'imbarazzante testimonianza della parlamentare democratica Micaela Campana, che alla fine ha ammesso di aver chiesto e ricevuto dalla RAS delle cooperative Buzzi svariati contributi elettorali. Ha detto: «Ho chiesto erogazioni liberali a Salvatore Buzzi a sostegno della cena del PD nazionale di novembre 2014, della festa dell'unità che si è tenuta a Casalbertone a luglio 2014 e per la campagna elettorale da consigliere comunale di Daniele Ozzimo, finanziata da Buzzi con 20.000 euro», ha detto la Campana. Intanto la battaglia in aula corre sul binario giuridico del riconoscimento del gruppo criminale nato e cresciuto intorno a Buzzi e Carminati, quel cosiddetto mondo di mezzo in grado di mettere in contatto politica e criminalità che ha condizionato buona parte della politica romana degli ultimi anni. Tutto si gioca sull'aggravante dell'associazione di stampo mafioso. Se cade l'impianto dell'accusa, il processo perderebbe ogni valenza e si avvierebbe ad una fase finale dove i reati, anche quelli gravi, si potrebbero perfino ridimensionare. Siamo, prima di andare al traffico, a parlare di calcio. Per parlare di cosa? Beh, il grande tema di queste ore, la vicenda Icardi. Ma che pasticcio il caso Icardi! Hanno torto tutti. L'Inter è fantastica anche per questo, che si incasina in modo talmente clamoroso che fa emergere il peggio del nostro calcio. Lo strapotere degli ultra, per esempio. Vi sembra normale che questa gente possa ottenere la degradazione di un giocatore? D'accordo, uno come Icardi non dovrebbe fare neppure il consigliere di condominio, però c'è un limite. Chi dà questo potere agli ultra e perché vengono confusi con la maggioranza sana di tifosi? Sono due mondi diversi. Uno è violento per statuto, l'altro soffre in silenzio o applaude le poche volte che con l'Inter si può applaudire. E la società? Dopo aver gestito coi piedi tutta la vicenda, l'Inter, oltre che a multarlo, ha fatto l'unica cosa che doveva fare, lasciargli la fascia di capitano a patto che cancelli le parole sotto accusa. È una toppa, certo, ma se non avesse fatto così lo avrebbe perso e Icardi, diciamo la verità, è uno dei pochi giocatori in questa Inter che fanno la differenza. E poi magari, chissà, questa storia gli servirà per crescere e a farsi una domanda importante: ma perché mai un ragazzo di 23 anni deve scrivere un'autobiografia? Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Lo inizieremo da Rimini. È una vicenda che avevamo, della quale vi avevamo già parlato e che... della quale avevamo avuto traccia da Faenza. Che cosa succede? Ci sono dei genitori albanesi che vengono in Italia, lasciano i figli minorenni magari davanti a un ufficio immigrazione o davanti ad una ausl e poi se ne vanno. Cosa succede? Che questi risultano come minori non accompagnati e vengono presi in carico dallo Stato, e magari i genitori stanno in Albania e il lavoro ce l'hanno e potrebbero anche mantenerli. A Rimini ci sono una quarantina di casi scoperti finora, ne parleremo con la vice sindaca appunto della città. E poi a Rovigo sta succedendo una cosa interessante. I sindacalisti della scuola se la sono presa perché gli insegnanti vengono avvertiti di eventuali riunioni, consigli di classe, cose di questo genere tramite mail, WhatsApp, SMS. Dicono: non si può fare. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della manovra, dell'incontro tra Renzi e Obama che ci sarà oggi, dell'offensiva su Mosul, di politica con il referendum e della polemica dello scontro interno ai 5 Stelle sulle spese di Maio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Rimini. E beh, una storia ve l'avevamo raccontata qualche settimana fa ed era la storia che arrivava da Faenza. Nel frattempo c'è stata una raffica di denunce per tutto questo, 66 a Forlì. Il problema sembra riguardare prevalentemente l'Emilia-Romagna e ora anche Rimini. Come vi dicevo prima della pausa, che cosa succede? Ci sono dei genitori albanesi che portano i propri figli in Italia, sono minorenni e poi li lasciano qua, risultano come minori stranieri non accompagnati e quindi succede che sostanzialmente i comuni devono farsene carico. Gloria Lisi, vice sindaco di Rimini, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, sono una quarantina i casi da voi, mi sembra di aver capito, no? Sì, attualmente sono 42. 42 quelli. Su 42 minori stranieri non accompagnati, 36 sono albanesi. 36 sono albanesi su questi 42 sì. stranieri non accompagnati, minori stranieri non accompagnati. Il problema. Sedicenti minori stranieri non accompagnati. Tra l'altro, vice sindaco, il punto è, e lo raccontiamo spesso, l'abbiamo raccontato spesso a questi microfoni, anche parlando del tema dell'accoglienza, è che ve ne dovete far carico voi, nel senso che. Assolutamente, perché. Il sindaco è responsabile della, appunto, dell'accoglienza di ogni minorenne che si trovi sul territorio comunale e quindi non ci si può esimere dall'accoglierli e nel dargli tutta l'assistenza necessaria. Quindi i servizi sociali che se ne occupano sono sostanzialmente quelli comunali, cioè i quattrini ce li mettete voi, per dirla brutalmente. Sì, noi li mettiamo, noi economicamente diamo la delega all'ASL, all'azienda ASL della Romagna, perché sì. Noi abbiamo la delega sui minori, ma effettivamente il carico economico è tutto a carico del comune di Rimini. I sedicenti minori non accompagnati quanti anni hanno, tra l'altro? Allora, generalmente prima arrivavano sui 17 anni, e arrivavano già, le faccio per spiegare, noi abbiamo un servizio di tutela minori presso degli uffici che sono anche decentrati rispetto al centro cittadino e quindi anche particolare per un comune cittadino riminese sapere esattamente dove si trovi l'assistente sociale della tutela minori a Rimini. Sì. Ecco, questi ragazzi arrivavano già nell'ufficio, ripeto, con una dislocazione anche complicata da trovare, ma loro arrivavano già facendo già delle richieste anche su quale scuola, in quale scuola essere inseriti e cosa e come dove male. Andare a essere accolti. Niente male, una sorta diciamo di Erasmus a spese del comune, piuttosto comodo tutto sommato, sì. Insomma. E come vi state muovendo voi? Perché il sindaco di Faenza, quando l'abbiamo avuto, ha detto: guardate, io sto procedendo proprio con delle denunce, delle richieste di risarcimento, addirittura ho scoperto che alcuni di questi, uno di questi era figlio di un poliziotto albanese, quindi insomma. Sì, loro sì, hanno anche questo. Ma noi poi come ASL siamo molto in contatto sia con Faenza che con i territori vicini, perché addirittura come tutti gli assessori dell'Emilia Romagna abbiamo scritto una lettera al prefetto Morcone, sì. A Roma, perché si faccia carico di questa situazione che in Emilia Romagna diventa davvero problematica. Sì. Io ho un collega a Piacenza che addirittura ha materialmente portato i minori albanesi al consolato albanese a Milano, quindi li ha caricati sulla macchina, li ha portati lì davanti e poi è stato lui assessore del comune di Piacenza, è stato invitato a uscire dall'ufficio dell'ambasciata dalla polizia italiana. Quindi è una situazione anche paradossale, ma questo per spiegare anche l'esasperazione degli amministratori. Adesso lo dobbiamo chiamare, guardi, domani lo chiamiamo l'assessore di Piacenza, perché è veramente una storia incredibile. Solo un'ultima domanda: vi state muovendo anche penalmente? Voi avete presentato denunce? Noi abbiamo presentato sia davanti a un tavolo, abbiamo inizialmente informato la questura. E poi adesso anche con la prefettura ci stiamo muovendo, abbiamo già istituito un tavolo insieme all'azienda, sì. Insieme a tutte le forze dell'ordine del nostro territorio, proprio per cercare anche di trovare delle soluzioni che vadano al di là anche di questa situazione, sì. Ma che possano risolvere già a monte, cioè già all'arrivo. Perché questo problema, utilizzando, certo. Esatto, la tratta dalla Grecia, e quindi non essendoci poi lì un controllo alla frontiera, diventa poi problematico andare a vedere con chi sono entrati in Italia. Perché la Grecia è Europa e quindi naturalmente là possono fare sostanzialmente quello che vogliono, o quasi. La ringrazio, grazie Gloria Lisi, vice sindaco di Rimini, quindi domani magari cerchiamo l'assessore di Piacenza. Rita Bonfante è una sindacalista dello SNALS, Sindacato Nazionale Autonomi Lavoratori della Scuola, a Rovigo. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie, benvenuti a voi. La vostra protesta ci ha incuriosito, perché con un volantino voi di fatto chiedete quasi intimando, direi, no, alle scuole, intimate alle scuole, agli istituti scolastici, ai dirigenti e non solo a loro, che non possono essere più convocate riunioni, consigli di classe, non possono essere fornite informazioni via WhatsApp, mail o SMS agli insegnanti. Ma perché, scusi? No, non proprio la mail, non è proprio così. In parte sì, noi siamo arrivati a questo punto perché l'inizio di quest'anno scolastico è stato ed è a tuttora veramente disastroso, con assenze di cattedre che sono vuote, personale che non ha certezza di nomina e quindi i dirigenti per necessità, sì, per coprire questi posti, per andare a tutelare anche i minori, quindi hanno iniziato gli studenti, certo. Esatto, hanno iniziato a convocare i docenti, a spostare il loro orario di servizio, a spostare l'orario di servizio del personale collaboratore scolastico o tecnico, e soprattutto però questo con i docenti, attraverso messaggi, ma non messaggi che abbiano un tempo lecito di sì, preavviso. Ma cosa intende per tempo lecito, Bonfante? Mi dia un tempo lecito. Io intendo che non è possibile che continuamente sempre, abbiamo appurato che non è stato un caso eccezionale, ma sempre tutti i giorni i docenti ricevano, o i collaboratori scolastici ricevano SMS, WhatsApp, in questo momento per cambiare il mio orario domattina. Oppure stamattina per dire non venire adesso, vieni nel pomeriggio. Però Bonfante, mi permette di fare un'osservazione. Chiaramente certo, io lavoro in un'azienda, no? E quindi non lavoro nel settore pubblico. Però nei momenti particolarmente confusi e complicati, che non lo so, possono dipendere da tanti motivi, nel vostro caso dall'avvio della buona scuola, che è stato complicato, lo stiamo raccontando da questi microfoni, per esempio quando ci sono dei colleghi, parecchi colleghi in malattia, il periodo delle influenze, eccetera, eccetera, alla fine può succedere, cioè per scavallare un periodo temporaneo ci può stare una cosa di questo certo, genere, o no? Però il periodo... Cioè... È vero, infatti noi la diffida l'abbiamo fatta quest'anno, non l'abbiamo fatto l'anno scorso, non l'abbiamo fatta il 12 settembre quando sono iniziate le scuole nel Veneto, ma l'abbiamo fatta dopo un mese dall'inizio delle scuole, perché la situazione sta diventando veramente esagerata. Non è possibile che il sabato, la domenica io debba lì guardare la mail a tutti i costi o ricevere l'SMS dal dirigente, del collaboratore, del dirigente, che mi dice guarda domattina no, non venire alle 8, vieni alle 10, non venire alle 10, vieni alle 8. Noi riteniamo inaccettabile. Il personale della scuola ha dato ha fatto vedere che è disponibile a tutto, sì, anche però Bonfante sembra suona un po' come una lotta, sì, contro la modernità. No, ecco, questo io temo, quando poi mi avete chiamato, ho temuto che questo fosse inteso come... No, infatti, come vede, le sto facendo la domanda, diciamo, molto laicamente. Sono perplesso, glielo confesso, però molto laicamente le faccio la domanda. No, non è che noi siamo contro la comunicazione WhatsApp o contro la mail, perché la mail è prassi nella scuola, non è che siamo contro la mail, siamo contro la mail ora per ora. Siamo contro la comunicazione di cambiamento di orario o di servizio da fare o di riunione indetta adesso per domani mattina, cioè all'ultimo minuto, sempre. Non è l'eccezionalità, è questo che ci ha portato a fare questa diffida. Sì. Le assicuro che nella provincia di Rovigo, ma neanche le organizzazioni nelle altre province, siamo così conservatori come spesso ci fanno passare. La mail è ormai la prassi, anche il messaggio può essere la prassi, va bene. Ma ci sono dei regolamenti che dicono una riunione la devi indire almeno 5 giorni prima. Almeno 5 giorni prima. Quello che stabilisce allora il regolamento d'istituto. Non viene rispettato questo. Allora, Bonfante, no, io devo chiudere. Intanto la ringrazio. Avete sentito l'opinione di Rita Bonfante, sindacalista della SNALS, su questo tema. Probabilmente è una cosa che si vive in molte scuole, non solamente a Rovigo. Adesso ci fermiamo, c'è la borsa, come sempre, e poi ritorneremo a Licata dal sindaco anti-abusivismo, il quale è stato ospite nei giorni scorsi a 24 mattino, come sapete ha minacciato le dimissioni, una minaccia poi rientrata. Ebbene, ha raccolto un audio del presidente della regione Crocetta sul tema dell'abusivismo, che è da ascoltare. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e i nostri titoli. Niente spot, pensiamo alla crescita, lo dice Padoan sulla manovra e aggiunge niente condoni. Oggi l'incontro tra Renzi e Obama, al centro dei colloqui l'Europa, la crisi dei migranti e la situazione economica. Rallenta ma prosegue l'offensiva sulla città di Mosul, roccaforte dell'ISIS. Si temono attentati, suicidi ed esplosivi lasciati dagli jihadisti. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Nel nostro giro per l'Italia andiamo a Milano. Anita Pirovano, consigliera comunale di Sinistra per Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Eccoci qua. Quanto ha sua figlia? 8 mesi e qualche giorno. 8 mesi. E che è successo ieri? Che se l'è portata nell'aula del Consiglio Comunale e le hanno detto no, qua non ci può stare, o meglio, non è che gliel'hanno detto i commessi, gliel'ha detto un collega della Lega. Sì, mia figlia è nata in realtà il giorno dopo le primarie di Milano e ha fatto tutta la campagna elettorale, anche l'inizio dell'avventura consiliare. Poveraccia. No, però prego. Si forgia per essere una ragazza poi solida. Io l'ho portata in consiglio comunale in realtà per scelta e provando insomma a trovare altre soluzioni, il nido e insomma aiuti vari, solo in 2 occasioni, perché penso insomma che quando è possibile posso stare in spazi o all'aria aperta quando è possibile, o pensati per l'infanzia, però in 2 occasioni, in un caso perché tutte le maestre del nido avevano un virus intestinale quindi il nido era chiuso, e in un'altra occasione perché si stava trasferendo da un nido privato a un nido comunale, mi sono trovata costretta a portarla con me per un'ora totale, nel senso, in attesa che il padre uscisse dal lavoro. E un collega leghista se l'è presa, ha detto no, non si può. Nell'ufficio di presidenza la settimana scorsa la Lega ha detto che questa cosa, che mi ha chiesto di non portare più il bambino in consiglio comunale perché violerebbe il regolamento d'aula. Nel senso, come se fosse un estraneo qualunque in qualche misura. E questo avviene nel 2016 a Milano, nella città che in questo momento è al centro dell'Europa, del dibattito sull'innovazione, accadono ancora queste cose. Che poi dico, ci ricordiamo per esempio l'europarlamentare Licia Ronzulli, che addirittura va a votare a Strasburgo allattando il figlio o la figlia, adesso non mi ricordo esattamente, quindi insomma no. La settimana scorsa era su tutti i siti questa parlamentare islandese che interveniva allattando, questo una settimana fa in Islanda, sì. Quindi insomma diciamo un po'. E anche in aule. Ma lei ce la riporterà, Pirovano? Io ho detto che tutte le volte che è necessario la riporterò senza farmi nessuno scrupolo. Tutte le volte che sarà necessario, anche perché ritengo che questa cosa, io sono anche in una condizione privilegiata rispetto ad altre donne lavoratrici con figli che magari fanno i turni serali o hanno lavori che sono più difficilmente conciliabili col tenere un bambino in braccio, quindi mi è sembrato che raccontare questa storia fosse anche un modo per segnalare una questione che sicuramente non è una questione individuale ma che riguarda tantissime altre donne e anche uomini, nel senso di genitori, ma di più le donne in questo caso. Senta una cosa, Pirovano, ci scrive qualche ascoltatore, no? Qualcuno ci dice: non sono leghista ma in ufficio, in fabbrica, io i bambini non me li posso portare. E dice: ma perché lei se lo può portare in aula, in consiglio comunale? Allora, per 2 ragioni. La prima è che si è trattato di situazioni impreviste, non preventivabili né posticipabili. La seconda è che gli incarichi elettivi prevedono l'obbligo, cioè io non posso non partecipare al consiglio comunale perché in quel caso le persone che mi hanno votato e che rappresento in consiglio comunale non avrebbero voce attraverso di me. Quindi non portare mia figlia in quelle circostanze avrebbe voluto dire per la democrazia della città che un pezzo di città non fosse rappresentata in aula, fra le altre cose. E in più, quando è possibile, io credo molto che i tempi del lavoro e della città vadano ripensati, cioè laddove ci sono degli ostacoli insormontabili va bene non farlo, prendo atto, ma bisogna fare uno sforzo. E per quanto riguarda i consigli comunali, però mi scusi Pirovano, mi permette perché poi qua sfondo una porta aperta, perché ogni tanto vorrei portare uno dei miei 3 figli qua al lavoro, insomma è piuttosto complicato, e ci sono anche delle normative da questo punto di vista, forse il suo collega leghista non ha proprio tutti i torti. No, beh, in questo caso diciamo l'unica normativa di riferimento è il regolamento d'aula, che dice che non possono entrare estranei. Io credo che un neonato non si possa considerare la stregua di un estraneo. perché ha bisogno di accudimento, ha bisogno di cura, il rapporto mamma-bambino nei primi mesi di vita è unanimamente riconosciuto come fondamentale, quindi non me la sento che... Non se la sente di mollarla una babysitter? No, non me la sento di pensare che possa davvero costituire un problema, anche perché concretamente mia figlia in quelle due circostanze non ha mai proferito né parola, perché non sa parlare. Vabbè, ma neanche pianto. Quanto sa? Tre mesi, quattro mesi? Quanto no, sa? Otto mesi, insomma. Però insomma, è una bambina molto tranquilla. Se proferisse parola, diciamo così, saremmo tutti particolarmente, particolarmente colpiti. La ringrazio. Grazie Anita Pirovano, consigliera comunale di Milano, per essere stata con noi, appunto, di Sinistra per Milano. Allora, a chiudere, avremmo dovuto avere il sindaco di Licata, Angelo Cambiano, che è quello che ha minacciato di dimettersi, quello che sta conducendo una lotta contro l'abusivismo, ma per motivi a noi ignoti, nonostante l'appuntamento telefonico che avevamo, ha deciso di non risponderci. Però vogliamo far sentire lo stesso. L'altro giorno è andato a Licata il presidente della regione, Rosario Crocetta. Il presidente della regione è andato per parlare con i cittadini, per capire com'è la situazione. Il sindaco ha deciso di non esserci, di non incontrarlo, e però gli hanno passato questa registrazione di Crocetta, che non è male nel momento nel quale un sindaco che appunto minaccia di dimettersi perché deve abbattere una serie di villette. Sentiamo Crocetta. Se tu vuoi impedire le demolizioni, dichiari come patrimonio di pubblica utilità quelle case, perché questo prevede la legge. La legge non attribuisce nessun potere al presidente della regione di fare queste cose. Le risposte che non danno. Altri comuni mi hanno dichiarato di pubblica utilità e quindi la magistratura non ci può fare niente. Tutti i comuni. Quindi lei sta facendo una dichiarazione ufficiale, che ha dichiarato tutti i pubblica utilità. Quelli che non ha dichiarato di pubblica utilità sono stati demoliti. Insomma, avete capito, basta dichiarare le case di pubblica utilità e risolvi il problema, nemmeno le devi abbattere. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.